sesta puntata di Dirocation 2.0. Molti non ci credevano, ma in realtà siamo ancora qui. È vero, caro Pisani? Sesta puntata, chi l'avrebbe detto? Chi l'avrebbe ormai detto? Siamo una realtà radiofonica non affermata, ma incostante, visto che oggi è mercoledì. Abbiamo saltato la domenica scorsa per motivi personali. Siamo talmente incostanti che siamo rimasti anche in due, come avevamo detto, perché il buon Silvius è ritornato a Bologna. Ci siamo incontrati per caso, abbiamo fatto una puntata. Eh sì, abbiamo detto passiamo un pomeriggio in compagnia di Nico Cappello, che si darà la tante anche lui a breve, purtroppo. Quindi la sentite tutta questa magia radiofonica, questo suono bello ovattato, questi bassi setosi non ci saranno più, dimenticateli completamente, perché dalla la tecnica dalla prossima puntata o dalla di quella successiva alla prossima sarà sicuramente più grezza, sarà in mano nostra, che però stiamo studiando alla cremente come fare il lavoro di Nico Cappello. Ora stiamo a spegnere e riaccendere. Dalle basi, cominciamo dalle basi. Benvenuti, perché non avesse capito, questa è di Rockation 2.0. Pisani e Zazzone e Silvius a grande assente, come abbiamo detto, per questa puntata un po', come dire, malinconica, ecco, però pregna di notizie, perché ne sono successe questa settimana. Non appena inizia settembre, non so, sbocciano le notizie immediatamente, sbocciano le cazzate, e quando ci sono le cazzate ci siamo noi, assolutamente, immancabilmente e senza qualunque mente. C'è un sacco di gente che non ha fatto i compiti delle vacanze, ecco, e si è visto le lacune degli anni passati. Bravo. Quindi diamo allora spazio alla musica, cominciamo questa sesta puntata in allegria. 3, 2, 1, benvenuti. Girl. Rush, Stone Temple Pilots di Rockation 2.0 per iniziare con la musica. Chiamar Cord. Sempre per la legge per la quale non ascoltiamo nulla che sia antecedente al 2000. Io ho sentito una cosa nuova stamattina, il pezzo nuovo degli Smashing Pumpkins. Perché gli Smashing Pumpkins si sono ancora... Hanno fatto un singolo, cioè Billy Corgan. Che ricordiamo non è il fratello di Vicky, di Super Vicky, è no, una leggenda metropolitana, è un fake. Che ora sembra quello che si è mangiato Billy Corgan. È diventato un maritozzo anche lui. Ha fatto sto pezzo che sembra uscito direttamente dal 96. Anche lui non è molto incline alle innovazioni. Billy Corgan da giovane, sì? È identico a un mio caro collega che saluto. Ciao Lorenzo. Saluto anche io Lorenzo. Va bene, continuiamo, anzi cominciamo con le notizie di oggi, della puntata odierna, perché abbiamo una notizia fresca fresca fresca appena arrivata in redazione. Abbiamo una redazione noi? Sì, ci siamo su quattro mura e un tetto. Questa è la nostra redazione e il nostro personal computer, sì. AMD E1, non perché noi Intel non li vogliamo neanche, abbiamo anche i piccoli processori. No, alla fine sempre là li fanno, sempre in Silicon Valley. Solo che costano di meno, esatto, e fanno le stesse cose. È per quello noi facciamo questi acquisti. Notizia fresca, dicevamo, perché arrivata il via libera, diciamo, il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright. Che cosa è successo? Oggi si è votato il Parlamento europeo per una proposta appunto per il copyright, e sottolineiamo copyright e non diritto d'autore, perché il diritto d'autore è un'altra cosa. A quanto pare la proposta è adottata con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni, ora negoziati con il Consiglio, e sempre presente Gigino Di Maio, di cui parleremo magari nel prossimo blocco, promette battaglia. Vergogna Unione Europea, questa è censura preventiva. Bisogna anche secondo spiegare... me non ha studiato. No. Ho i miei dubbi, perché non è censura, diciamo, più che altro è come dire, raccogliere tutti i privilegi che determinati brani musicali o determinati prodotti di editoria per alcuni, soltanto per poca gente, solo per chi è iscritto alla SIAE, di cui il presidente ora è Mogol, grande innovatore, grande paroliere della musica italiana 30 anni fa. Ora diciamo che Mogol ci parli di nuove tecnologie, visto che, non voglio essere cattivo, ma la sua fine è domani. Tra l'altro Lucio Battisti non sta manco su Spotify. Appunto, manco i diritti prende manco la diritti. Spotify. Ah, appunto, quindi... li scarichiamo ancora con WinMX. Esatto. Caro Mogol, il Parlamento europeo, leggiamo da Repubblica, ha appunto dopo aver respinto il 5 giugno gli eurodeputati appunto del Parlamento europeo avevano proposto una vasta serie di emendamenti al testo. Oggi hanno approvato alcune modifiche proposte dal relatore Axel Voss. Quello dei Guns N' Roses. Ah, esatto, bravissimo. Agli articoli 11 e 13 della proposta di direttiva sul copyright, che erano stati contestati in una campagna a favore della libertà di internet. Il via libera della plenaria apre ora la strada ai negoziati. Vabbè, con il però Consiglio. Tu me l'hai linkato sta pagina, però io non l'ho letta. Me la spieghi? Allora, che cosa è successo fondamentalmente? Che a quanto pare ci sono molte più restrizioni per i materiali protetti da copyright su internet. Molti distributori di prodotti con all'interno musiche o testi o visual. Esempio concreto? Esempio concreto, Facebook è un esempio concreto. Vabbè, già tutto ciò che appunto il risultato qual è? Che noi come programma non possiamo fare una diretta. Dobbiamo mettervi il link di merda. Che molto spesso dice: ah, bella la pagina, ma che fate? Infatti, tutti quanti pensano che abbiamo un bar. Sì. Oppure che sì, ci siamo. Clicchi sul link e pensi che sia un external provider, pensi che sia la pagina per allungarti il pene. Invece no. Se voi cliccate play. Ci sentite, ok, protetti dal diritto d'autore o no? Questo mi fa pensare ai tanti... Se ci ascoltate siete andati oltre questo step, quindi complimenti. Esatto, questo mi fa pensare, dicevo, ai tanti bordereau SIAE firmati e compilati negli anni per i concerti tanti dei tanti DJ, dei tanti musicisti. Mi ricordo un carissimo amico che aveva un gruppo di Bicelli, e lo saluto, Gaetano, i Dead Restrain, un grandissimo gruppo brutal death metal di Bicelli, che si esibiva in alcuni locali e ha compilato parecchi parecchi moduli della SIAE, parecchi bordereau della SIAE. Tra questi uno era molto simpatico e aveva come prima canzone nell'esibizione "Finché la barca va" di Orietta Berti. Missing Everything But The Girl, sempre questa atmosfera da barbiere del 95, ti ricordi Pisani? Sono appena sceso da una cabrio con i capelli al vento, io e Patrick Swayze. Vabbè, lasciamo stare. Speriamo tu non faccia la stessa fine di Patrick Swayze, perché non è stata molto... No, no, è lui sul surf. Ah, ok, io. Ok. Sempre di Location 2.0, sempre in compagnia dei Redeem, in formazione ridotta, senza il buon Silvius, che comunque continuiamo a salutare, ci manchi, capellone. Torna a trovarci molto presto, perché le frequenze dell'internet aspettano solo a te. E proseguiamo con le notizie, proseguiamo con le nostre rubriche. Lo sapevamo che lo aspettavate, lo sapevamo che volevate a tutti i costi questo blocco, e noi ve lo diamo. È il momento di Gigi la Frottola. Eccolo, sei, oh Gigi, rotondo un po', oh Gigi, ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so, ah, ma come fa, oh Gigi, dimmelo tu, oh Gigi, col tuo pallone a volare lassù, tutta la tua classe punta su di te, nella squadra tu sei grande re, campione, la tua città ti chiama già Gigi la Frottola. Il buon Gigi questa settimana si è divertito tantissimo, ne ha dette di più. Sembrava Pierino. Era fantastico, è stato fantastico. Non sappiamo da dove iniziare. Mancavano le pernacchie. Gli effetti sono col fischio senza, queste cose qua. Gigino questa settimana è stato protagonista di tutti, diciamo, tutte le prime pagine dei giornali. Perché? Perché non si è fermato davanti a nulla, cioè ha dimostrato... Inarrestabile. Ha dimostrato di non aver letto mai neanche un sussidiario in vita sua. Manco ultimo libro letto, ha dichiarato istruzioni delle supposte. Penso, e da là forse che si è rifatto per le dichiarazioni, che ha dato negli ultimi giorni. Una di queste è stata, diciamo, quella che tutti hanno definito una gaffe, perché oramai è stata anche smentita dalla controparte, salvata, l'ha salvato in corner, ma molto più che in corner, l'ha salvato proprio in zona Cesarini, ma proprio l'ha salvato forse alla fine della partita, sì, anche della serie. Il professoressa stava con me, posso confermo il cane io. Si è mangiato la pagina della Basilicata. che cosa ha detto, appunto, in visita alla Fiera del Levante, ovviamente come ministro del lavoro, ricordiamo, ministro del lavoro senza aver mai avuto un giorno di contributi pagati in vita sua, ma questo è un altro discorso. Ministro del lavoro che si è presentato appunto con Emiliano alla fiera per presenziare, e che durante la solita passeggiata di rito davanti alle telecamere senza problemi ha richiesto ad Emiliano come stiamo messi con Matera, che in Basilicata ovviamente a denti stretti. Emiliano è in Basilicata. Poi hanno smentito, hanno detto che parlavano del raddoppio della ferrovia, poi si è finito a parlare di Matera capitale della cultura 2019, finanziamenti. Ma vi invito a vedere la faccia di Gigino, che era proprio quello che aveva detto la minchiata, aveva detto la cazzata. Quando vi ricordate, quando a scuola durante le interrogazioni sparavate la vostra minchia, tutti sparavamo, perché tutti quanti siamo stati protagonisti almeno una volta di una cazzata sparata durante le interrogazioni. Vi ricordate la vostra faccia, la faccia del vostro compagno di banco più che altro? Bene, quella è perfettamente quella faccia, un po' tra il misto tra il l'ho detto e mo come cazzo faccio uscire da questa situazione. È un po' così, è stato molto divertente, un siparietto che ha creato tantissima discussione sul web, no Pisani? Un po' come quando dici chi era il dittatore del Venezuela dopo Gigio, no. Pinochet è vero, ma ricordo quella cazzata mega mondiale che sparò, che però mi ricordo se fu lui o Alejandro, quello che sta là in Sud America, a imparare dove stava Pinochet. a imparare e poi a insegnare al buon Di Maio un po' di geografia, quanto anche pare. L'altro comunque mi sa che andavano in classe insieme, esatto avevano gli stessi professori, l'accompagnatore, quello che c'è di profilo, quello che va di profilo sempre durante, sì, quello che non si lava i capelli. Quello come il presidente, ma quello Conte, chi? Quello, dai, Gomgel. Ah sì, bravo Gomgel, che ha detto che c'è stato un grande slancio, il miracolo italiano, dopo l'8 settembre 1943. Tutti lo sanno, tutti i libri di storia ne parlano, no? Io pensavo ci fossero stati altri 2 anni di guerra e stragi naziste. Però vabbè, ha detto lui, no, le fosse ardeatine, non lo so, Sant'Anna di Stazzema. Vabbè, ma tu non hai mai sentito parlare di revisionismo storico? Questo è revisionismo storico applicato però al governo italiano, e tanto applicato al governo ma italiano. Ma il revisionismo storico, le accuse di revisionismo storico, risponde che la macchina è della madre perché comunque lui la guida solo una volta ogni tanto. Esatto, bravo, bravo. Beh, è una giusta risposta. Detto ciò, questo è sottile. Continuando sempre a parlare del buon Gigino, che ne ha dette tantissime, tante, tante, ma non vogliamo dilungarci. L'ultima è spettacolare, a dir poco spettacolare, ed è fresca, fresca di ieri a Carta Bianca da Bianca Berlinguer. Ha dichiarato, riferendosi a Taranto. Questa è una cosa che, se tu vorresti fare un paragone, un esempio, o andare per iperboli, inventartela, non ci riusciresti mai. Taranto, appunto, leggiamo da Repubblica Bari per la precisione, Taranto, il vice premier Luigi Di Maio, lì, riferendosi appunto a Taranto, non ci sono musei degni della Magna Grecia. In diretta TV il ministro dello sviluppo economico dimentica l'esistenza del Marta, che è appunto il museo, il punto di riferimento mondiale per l'archeologia riguardante la storia greca e della Magna Grecia. La direttrice Eva degli Innocenti replica su Twitter: il nostro è uno dei musei archeologici più importanti del mondo, cioè, forse uno dei pochi musei per i quali valga la pena pagare, esatto, il biglietto, ecco. Bravo. Cioè, è una cosa che sanno, cioè, dico, scolaresche intere, caro Luigino, vanno in visita a questo, in questo museo, cioè, studiosi americani vengono apposta. Ma io non voglio neanche arrivare agli studiosi, proprio le scolaresche, capito? Probabilmente quel giorno aveva la varicella. Sì, sì, quel giorno aveva la tonsillite, queste maledette placche alle tonsille. Secondo il vice premier Luigi Di Maio, intervenuto nel programma televisivo di Rete 3, lui Bianca, andò in gita al Marta. Sì. Però stava giocando con la manina con la gommosa delle patatine. Non prestava attenzione. Taranto, continuando la regione della Repubblica, non avrebbe un degno museo. Un lapsus che suona come un affronto al Marta, museo archeologico nazionale del capoluogo ionico. Insomma, uno schiaffo, continuando sempre su Repubblica, uno schiaffo ai suoi 131 anni di storia, ai piani che accolgono reperti dal valore inestimabile come gli Ori di Taranto, giusto così, esposti negli Stati Uniti e all'Expo di Milano, dalla preistoria all'alto medioevo, ai continui progressi che lo hanno portato sul podio dei luoghi della cultura più visitati in Puglia nel 2017. Ma si vede che per Gigino non era abbastanza, cioè, un museo eccellenza, una delle poche eccellenze che la Puglia può rivendicare, sì, con orgoglio. Forse non è abbastanza, magari nel Mar Piccolo sarebbe più opportuno organizzare dei combattimenti fra trireme. Bravo, bravo, bravo, bravo, un'ottima proposta, un'ottima trireme proposta. E poi magari uno spettacolo di gladiatori. Bravissimo, non c'entra un cazzo con la Grecia. Sì, ma noi ne mettiamo tutto quanto insieme. Insomma, noi vorremmo chiudere il blocco in una maniera molto cinica, ma reale, rivedendo un po' quella che era la chiusura dello scorso blocco e dicendo: Gigi, però, fermati un po' alle cazzate di un po' no. All right. E spazio al metallo, quello vero, quello che ci piace, quello groove, qua di Rockation 2.0. Questi erano i Pantera. Questa la conosco. Il Pantera 5 minutes alone, 5 minuti da solo con Gigino. Quello vorremmo fare noi. Lui e Filanselmo. Ma magari se li lasciamo 5 minuti da solo, forse Gigino rivede un po' le sue posizioni e continua a parlare, magari non a sproposito e non a dire cazzate dalla mattina alla sera. Di Rockation 2.0 suona, lo continua. Continuo cappello anche nonostante suoni, cioè, di i suoni di Windows, e continuiamo con le notizie, perché altra notizia molto fresca sempre di oggi è che sempre dal Parlamento Europeo, quindi ritorniamo un po' in Europa, è arrivata finalmente direi la condanna a Orban per tutto quello che sta per essere Orban. L'assemblea ha approvato la risoluzione di Judith Sargentini. C'è sempre qualcuno col nome italo-americano, cioè in qualche, non so, col nome italo-americano in qualche, cioè, maniera. Aveva un cane che si chiamava Johnny Cupino, lo ricordo. Era un volpino tarchiato, sembrava un italo-americano di quelli che vanno i macellai. È sempre stato perfetto per Strasburgo. Appunto, Judith Sargentini, sulla situazione in Ungheria. Ora spetta ai capi di Stato e di Governo decidere sulla procedura prevista dall'articolo 7 del trattato. E poi detta così non si capisce. Capisce, ma è chiaro, cioè, su Repubblica puoi capire per caso. Mica la Gazzetta. La Gazzetta è più, abbiamo detto anche in altre puntate, è molto più specifica nel titolo, diciamo, di qua. Capisci subito la notizia, diciamo. Su Repubblica devi sempre andare un po' a leggere sotto le righe e poi non capisci comunque un cazzo. Voglio vedere che dice la Gazzetta. su Orban. Alla sfida di Viktor Orban all'Europa, Strasburgo ha risposto approvando la risoluzione dell'europarlamentare olandese dei Verdi, Judith Sargentin, che accusa l'Ungheria di violare i principi della democrazia. Ma va! Il testo ma tu guarda un po'. Il testo è stato approvato con 448 voti a favore, 197 contrari e 48 astenuti, con 693 votanti. Tra quei 197 contrari c'era il nostro carissimo Lord Voldemort, il ministro dell'interno con il suo partitino. Non l'avrei mai detto. Perché ricordiamoci anche il Parlamento europeo. Perché è andato. E adesso è oggi andato a Strasburgo. È andato a votare. E poi avvisare. Non dice mai niente. Noi volevamo. Ci mangiavamo un waffle. Appunto. Lo andavamo a trovare. 197 contrari, tra i quali appunto la Lega, e che diciamo ha creato questa situazione, un po' una spaccatura in quella che è il Partito Popolare Europeo, quella formazione che andava da destra xenofoba a Voldemort. A Voldemort. Passando dei trombatori di Silvio, tutti quanti insieme, capito? Sì, c'è stata una profonda spaccatura, perché appunto chi diciamo crede ancora un minimo nei principi democratici di questo paese ovviamente ha votato per la condanna. Il nostro Lord Voldemort invece, che di principi democratici non sa neanche che cosa significhi, cioè non sa ma manca la parola. Si appella, capito? Lui è stato eletto. Lui è stato eletto. La magistratura non può indagarlo, ma lui è stato eletto. Quindi lui fa il volere del popolo. La stessa cosa che ha detto Orban nel suo discorso ieri nella Commissione Europea. E non funziona proprio così. Eh no, non è proprio così, diciamo. Non è che puoi fare quello che cazzo ti pare solo perché qualcuno ti ha eletto. Per giunta col 17%, quindi non è che abbia preso percentuali pure. Sega. Esatto. Una votazione storica, tornando al Parlamento Europeo, a favore dello Stato di diritto, ha commentato la relatrice del testo Sargentini. Il governo di Viktor Orban ha minato i valori europei attaccando l'indipendenza dei media, dei giudici e del mondo accademico, e le persone vicine al governo e i loro amici e familiari si sono arricchiti a spese di contribuenti ungheresi e europei, perché ricordiamo che loro... Sarà un caso che tutti gli stronzi ce l'hanno col mondo accademico? Ma questa è la rivincita dei bocciati. Esatto, non vale più studiare, con tutto rispetto per i bocciati, che per carità sono anche riscattati nella loro vita, però... Questo è proprio il riscatto, la vendetta degli asini. Cioè, tu l'asino. Chi imparava a memoria. Bravo. Tipo la mia compagna di banco, protagonista anche delle nostre rubriche. Però ma non ne parliamo. Magari dedicheremo un ampio spazio in qualche altra puntata. Il popolo ungherese, aggiunge la Sargentini, merita di meglio. Gli ungheresi hanno anche il diritto alla libertà di espressione, alla non discriminazione, alla tolleranza, alla giustizia sanciti dai trattati europei, caro Pisani. Quindi il paradosso è doverlo ribadire. Il paradosso è questo, il paradosso è che nel 2018, quasi nel 2019, dobbiamo parlare ancora di principi democratici, dobbiamo ancora parlare di muri alzati come il buon Orban ha fatto. Tra l'altro, oggi 12 settembre è anche giorno di ricorrenze. è la fine della prima guerra mondiale. Sì. E noi festeggiamo non la fine della prima guerra mondiale, ma il fatto di non aver ancora cominciato la terza. Quindi cioè, la paura è dietro l'angolo. Paura è dietro l'angolo, però finora ci è andata bene. 100 anni, vabbè, ce n'è stata un'altra un po' più cattiva di mezzo. Quale? Ero malato. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai, nu mai ei, nu mai, nu mai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai, nu mai e. Questa è una hit di un paio di anni fa. Riesco a stare in piedi anche al centro del Tagadà. Un inno europeista potremmo definirlo. Drago Steintei, che ha costruito l'unità europea negli anni 2000. Ai duci, per l'appunto. L'ha fatto proprio lui, l'ha creata proprio lei, anzi. Mi ricordo, ai duci, rumena, ma di sede a Bari. Ah sì? Sì, sì, sì, sì. Vedi, questa è una piccola chicca che ti ho detto, chicca. Non la sapevi. La Romania che confina con l'Ungheria. Gigino, prendi nota. Prendi nota, Gigino. Confina mi con l'Ungheria. Non è Romania, non è Frosinone. No. Ok. Beh, basta che l'hai specificato, perché tu poi che ne conosci benissimo la geografia, sei il tuttologo della trasmissione, dovresti assolutamente dare queste nozioni al nostro ministro del lavoro. Dimmi un paese e ti dico la capitale. Allora, un paese, uno stato, mi dici un paese, la capitale, sì, uno stato. Mi dici Mariotto. Eh no, beh, per se mi dici paese, divide piccola, paese con la P maiuscola, devi essere preciso. Ma era maiuscola, appunto, era maiuscola, non l'avevo sentito, perdonami. Allora, vediamo, molto semplice, Liechtenstein. Liechtenstein. Sei bravissimo, bravissimo, bravissimo Pisani, bravissimo, un esperto di geografia, un esperto di tutto. Facciamo il contrario, Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Mongolia. Mongolia. Mongolia. Mongolia. Vabbè, scusami. Arrivano a meno 40 gradi. Io di Ulaanbaatar, Ulaanbaatar conosco il gruppo musicale, sono bravissimi, li conosci? Ma sei loro, un ignorante. Ma Ulaanbaatar si chiama così per il gruppo musicale? Eh sì, ma cioè, appunto sì. Ragionamento che regge, regge. Vabbè, stiamo dicendo troppe cazzate, stiamo divagando. Stiamo lasciando invece quello che è il fulcro del programma, le notizie. E le diamo subito, perché continuiamo con una notizia che ci vede un po' diciamo, vicini geograficamente a quello che avverrà a domani a Bari. Perché domani a Bari sarà presente Lord Voldemort, il nostro presidente. Che culo! Vicepresidente Presidente del Consiglio, ministro degli interni, nazista in erba, se non già bello avviato. Già lo stanno accogliendo con scritte sui muri. Sì, ma lui sì. Ricottaro. Ricottaro. Noi nel cognome non lo diciamo mai, Ricottaro. Il ministro dell'interno arriverà in tarda mattinata, dice questo soltanto la Gazzetta. Sarà domani mattina 13 settembre a Bari per un sopralluogo al quartiere Libertà. Chissà che cazzo doveva controllare. Non lo so. La fognatura, no, per vedere se è confortevole, ma so, per tornarci i pali di elettricità, per controllare se tutto quanto è a posto, magari si piglia nascosta e siamo tutti più felici. E poi per una visita appunto alla Fiera del Levante, che quest'anno abbiamo detto che è più pacca del solito. Ah sì? Sì, sì, sì, l'anno scorso. Vabbè, il panino col booster sta. Sta sempre, quello sta sempre, e il padiglione delle nazioni c'è sempre, per il resto non è sempre più pacco. Su invito della Lega di Bari, la Lega di Bari, questo poi è questo simbolo, me lo dovete spiegare. Lega Nord Bari. Bari. Lo comunica il segretario regionale del partito Andrea Caroppo. Ciao Andrea. Fumagalli, e mi sarei aspettato, no, Caroppo. Tipico nome barese. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, auspica che il ministro dell'interno Lord Voldemort non trasformi in una polveriera la sua visita domani nel quartiere Libertà di Bari, dove 3.000 cittadini si sono già ribellati anche con una petizione contro l'eccessiva presenza di migranti. Quindi dici sta già contento lui, capito? Dici che il titolo della petizione fosse Sossel New. Questa Sossel New. Sossel New. Sossel New. Sì. Vota, cioè, firma per questa petizione Sossel Neuro, sì. Mi piaceva. E invita il leader della Lega a un confronto sulla questione da tenersi nel quartiere della Fiera del Levante, coinvolgendo anche il sindaco del capoluogo pugliese e presidente ANCI Antonio De Caro, che c'è ancora, esiste ancora anche lui. A margine del governo Puglia, terra di accoglienza, motore di sviluppo e di aiuto internazionale, giustamente chiamiamo Salvini, è un sì, giusto. Incontro con questo nome, con questo titolo. Emiliano ha detto, due punti. È come la panna nella carbonara. Ma ci sta benissimo. Va. Vorrei rendere al ministro Salvini un mio pensiero. Visitare il quartiere Libertà, anziché concordando la visita col sindaco, con i parroci, con le associazioni del quartiere, con l'ex consigliere comunale che ha raccolto le firme tra gli abitanti per cacciare via dal quartiere i migranti che sono legalmente presenti con permesso di soggiorno, a me pare una scelta imprudente. Bravo Emiliano, bravo. Duro, bravo veramente Emiliano. Duro, pesante, duro, pesante, parole macigno. Forti, parole fortissime. Vabbè, insomma, io... Vabbè, a che ora è il concentramento? Allora, la verità è che noi abbiamo dato notizia perché volevamo lanciare quella che sarà la manifestazione di domani, Bari non si lega, mai lanciata dal collettivo Mai con Salvini, al quale noi aderiamo. Assolutamente. Visto che noi abbiamo... aderiamo con i nostri adesivi Odio la Odio la Lega, che appunto abbiamo sponsorizzato e continuiamo a sponsorizzare. Il concentramento domani alle 18 alla classica piazza Umberto, quindi ci sarà, oltre che un presidio che è già in corso in questo momento a Bari, una manifestazione. Cari studenti medi, potete fare Friana. Bravi, bravi. Noi vorremmo specificare Friana per i giovani del nord, sarebbe marinare la scuola, in un certo senso. Marinare la scuola. Noi accorciamo, diciamo... Friana è molto più semplice, quindi potete fare Friana tranquillamente a scuola, è tutto più che giustificato, perché la presenza di Lord Voldemort domani sarà un momento per poterci anche contare, perché questa è la verità, dobbiamo anche un po' contarci e contare su di noi. Poi chissà, se dovesse trovare un bel negro che lo mena, siamo anche più contenti. Trouble double double, trouble double. Shoot a little, whoa, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rose and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young, yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shouldly waddle diddly woodly diddly whoa. Swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that sing, DJ and blow. Pull it down the jetty, oh. She didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of rose and I started to run. Here I come, oh. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down, cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoot it up, boom, boodly diddly, whoa. Extra size, extra size, extra size than size way. Extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom rose, they tell me to come. That she didn't have a daughter, she did have a son. Here I come. Shoodly waddle diddle waddle diddle whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Over the ocean and over the sea, all of the girls, them my folks, for we, ooh wee. Shoodly waddle diddle diddle whoa. Sing, and the intercom rose, they tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, I come. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. That cause you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly rap, boo, boodly diddly, whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. I'm broad, I'm broad, and then over the sea. Ooh-wee. All of the girls, them are both for we. Ooh-wee. Shoodly waddly diddly waddly whoa. Here I come. Shibbly bbly bbly bbly bbly. Barrington Levy, Here I Come, sempre reggae, onnipresente, purtroppo. Sweet reggae music, sweet reggae music. Oh, bro, purtroppo presente, diciamo purtroppo perché l'abbiamo sempre più detto, noi non siamo un grandi estimatori del reggae, però Cappello, siccome vuole fare la playlist varia, ora aspettiamo che lui se ne vada. Io una volta avevo un dread. È vero, avevi però i capelli lisci, faceva schifo al cazzo. Non era credibile, assolutamente. Poi col giubbotto di pelle non era assolutamente. Tra l'altro, avevo anche un bullone appeso. No, me lo ricordo. Me lo ricordo. Bevevo l'acqua alla fontana, me lo davo in fronte. Per la felicità di tua madre, sì. Che è cioè, molto contenta, diciamo, dell'aspetto fisico di suo figlio. Ricordo che mia madre era contenta anche quando gli facevo le treccine ai capelli, ma questa è un'altra storia. Diciamo, perché diciamo, ne abbiamo passate tante, Pisari, insieme, separati. Poi tu. Tra capelli e barba. Eh sì, vabbè, un tutt'uno. Posso potuto divertire come volevo, vabbè. Parliamo di musica, perché la politica ci ha un po' rotto il cazzo, me la lasciamo per un po'. E parliamo di uno degli artisti, diciamo, più in voga ultimamente, anche se oramai ha la sua di 50 anni probabilmente lui, ma continua a fare i ragazzini, a farsi sempre più tatuaggi addosso, quasi, diciamo, fosse per lui uno stato. A me sembrano vecchi tatuaggi, si circonda di gente tatuata. Si circonda anche lui di gente tatuata. Stiamo parlando di J-Ax. Perché parliamo di J-Ax? Ma perché ci andava, perché ci piacciono gli anni 90. Ci piacciono gli anni 90, esatto. E quindi quando si parla di tuffi nel passato, noi ci tuffiamo anche insieme agli altri. Articolo 31. Ah, che paura, articolo 31. J-Ax e DJ Jet tornano insieme sul palco per festeggiare i 25 anni di carriera. La reunion, cari miei, durante i 5 giorni di J-Ax 25 Live. Hanno fatto pace perché avevano scazzato. Eh sì, si avevano scazzato. Al Fabric di Milano dal 15 al 22 ottobre. L'artista sui social, ma non si capisce se uno o l'altro, però l'artista, abbiamo fatto finalmente pace. Penso sia J-Ax. Abbiamo tanto da recuperare. Soldi, ad esempio. Soldi, sì. Soprattutto DJ Jet, mi fa molto piacere che ora possa pagare l'affitto, finalmente, visto che si era ridotto a fare da sagra del panino della nonna Giovinazzo. Eh sì, che faceva l'articolo 31 2.0 con Pino Pepsi della Chop Chop e altri quattro amici che, insomma, che salutiamo. Che salutiamo comunque. Manca quasi un mese al J-Ax 25 Live. Io sono stato a un concerto dell'articolo 31. Vero? Avevo 18 anni. E com'è stato? Facci sapere. Ma fu carino, andai con la fidanzatina dell'epoca, mi comprai pure una maglietta. Alla fine, chi non sa a memoria i testi di articolo 31? Sì, sto caniamo. Diciamo la verità, li conosciamo un po' tutti. Manca appunto quasi un mese a J-Ax 25 Live, lo show. La merda da solista è formativa. Esatto, la merda è formativa, bravo, è formativa. Lo show da solista di J-Ax in 5 date al Fabric di Milano, che ha già registrato il sold out. È un... Non vedevano l'ora, la gente non vedeva l'ora di recarsi a questo concerto. Appuntamento è domenica, primo appuntamento è domenica 21 ottobre 2018. In vista dei concerti, J-Ax ha annunciato sui suoi canali social la partecipazione sul palco di DJ Jet, l'altra metà degli articolo 31, e siamo felici per questa cosa. Sono felice soprattutto che si sia liberato di quell'imbecille che usava il vocoder. Ma chi, Fedez? Ma a quanto pare i giornali scandalistici, cioè fonti più o meno ufficiali, questa è la nostra rubrica leggera, quella del gossip, alcuni siamo... Si dice nel nostro paese siamo delle puttane vecchie. Bravo, siamo un po' puttane vecchie anche noi. Cosa è successo? Che secondo noi, c'è un po' di maretta, c'è stata un po' di maretta tra Fedez e J-Ax. Fedez, che a cui abbiamo dato la notizia la scorsa puntata del matrimonio, che si è tatuato e sposato con Chiara Ferragni la scorsa settimana, e non ha invitato al matrimonio J-Ax, appunto. Quindi grande maretta tra i due, diciamo, un po' di discrepanze nel loro rapporto. Visto che stanno facendo una barca di soldi con una canzone di merda. Una canzone veramente di merda. Ne fanno una più di merda dell'altra, quella italiana. Sì. Io era più di merda, secondo me, quella. E ancora un'altra estate, quella della scorsa estate. Però fanno a gara, diciamo, un po' da chi è più di merda. Ha lasciato un po', diciamo, questo rapporto J-Ax con il buon Fedez, forse perché, secondo me, c'entra la moglie. C'entra la moglie, perché secondo te? Però non ho nessun te? Elemento per dirlo. Ma la tua tesi qual è? La tua tesi, quella di cui stavamo parlando, la tua tesi qual è, Pisani? Secondo te perché è finito questo rapporto amichevole e professionale tra i due? Perché c'entra la moglie e perché? La sgamata pippare. E chi gliela passava? La J-Ax! Martin Solveig e Dragonette, i pezzi anche commerciali qui a The Rotation. Posso dirla? Dilla. Questa canzone mi sta sul cazzo. Anche a me, guarda cappello, ma la vuoi finire di mettere questa canzone di merda? Io poi devo sempre parlare in maniera bella. Non vogliamo essere democratici. Non ce ne frega niente di essere democratici, capisci? Ci fanno schifo queste canzoni, però ovviamente il pubblico a casa apprezzerà. Noi siamo onesti, guarda. Se non apprezza... Ce ne fotte questi cazzi, ok. Di Rotation 2.0 continuiamo ancora con le notizie, perché oggi è l'anniversario. Attenzione, di... allora io volevo introdurre questo. Esatto, perché, perché sei tu che la devi dare la notizia. Vorrei dare, e capirete dove voglio andare a parare. Sì. Il giusto rilievo all'umorismo dei genitori. Bravo, cioè, bravo. Se avete dei genitori over 50, avrete riscontrato chi più chi meno che da quando esistono gli smartphone, da quando hanno in mano una tavoletta da toccare, da quando possono mandare i messaggi, hanno al di là di tutti gli equivoci che possono aver generato, possono avere un umorismo incredibile. è vero. Allora, l'ho notato anche io. Ma da sé che parliamo dell'anniversario della liberazione di Benito Mussolini da Campo Imperatore. Ora, perché voi date questa notizia, direte? Ma perché? Già, vi conosciamo da una vita, dovete dare la notizia di un anniversario del cazzo del imperatore. In realtà, siccome questo è un programma tanto di notizie quanto di cazzi nostri, c'è un motivo. Redeem storia. Bravo. Redeem storia, redeem della storia. Esatto. Nel 1943, sì. questa l'ho menata. Vabbè, ma poi Mussolini era prigioniero. Tanto Di Maio può dire quello che vuole, possiamo dirlo anche noi, non c'è problema. Mussolini era prigioniero sul Gran Sasso, sì. Arrivarono i nazisti, se lo portarono e poi fecero la grande rinascita italiana di cui che sopra. Ha raccontato Conte di cui sopra. Vabbè, casino, repubblichini, altri due anni di guerra. E quindi scappò da questo rifugio su Gran Sasso, dove era tenuto prigioniero dai badogliani. Esatto, bravo. Corretto. Ora, tu un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, andai in escursione su Gran Sasso con degli amici. Ma tu ti trovi sempre in questi posti, diciamo, queste escursioni. Posti qui. L'altra volta il marmo di Trani, questa volta il marmo. Stavo in mezzo agli alberi, okay. In mezzo ai lupi. Ok. Ovviamente, da pippe quali siamo di escursionismo di montagna. Con l'infradito, stavate probabilmente. Ci caricammo di quintali inutili, sì. E arrivammo alle 8 di sera, che eravamo a un cazzo dal percorso, che ci eravamo menati a fare il percorso più difficile. Sì. Torniamo indietro, torniamo alle macchine mestamente, prendiamo la macchina e arriviamo al rifugio di Campo Imperatore. Sì. Entriamo in questo albergo malmesso, trovo una targa di granito con scritto qui venne tenuto prigioniero Benito Mussolini durante la sua prigionia nel 1943. Io, basito, faccio una foto, la mando su WhatsApp al mio genitore, al Pisani Senior. Al Pisani Senior. Commentando, ma guarda dove sono finito. Sì. E lui mi risponde. Potrebbe essere lo stesso letto. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Ever took my life tonight? Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Where do I begin? It all started when I lost my mother. Roach, Last Resort. Probabilmente questo è l'album che, a cui sono più legato, ma per una questione sentimentale, caro Pisani, perché una mia fidanzatina di 14 anni mi ha un regalo originale, non sapendo chi cazzo fossero minimamente i Papa Roach. Però siccome e ti casavi con i Coretti. A me piaceva il new metal, ero un po' giovincello, sempre di Rockation 2.0, nuovo blocco questo, sempre di notizie, perché vogliamo dare una notizia alquanto particolare. Oddio, non una novità, perché non è che hanno scoperto l'acqua calda, hanno scoperto, cioè, hanno sfondato la porta aperta. Avete presente quando siete in una città che non conoscete, volete mangiare un boccone, volete andare al ristorante, vi siete portati il vestito figo e uscite la sera. Bravo, esatto. Dove decidete di andare a mangiare? Ma sono un po' indeciso, perché non saprei dove andare. Avrei bisogno di un'applicazione che magari mi indichi qual è il posto migliore dove potermi recare a consumare un lieto pasto. Ed è così che prendete i migliori pacchi della vostra vita. Perché questo? Perché una delle applicazioni più utilizzate sul web, ossia TripAdvisor, è stata protagonista di una storia quanto particolare e di una serie di diarree. Perché quella è la verità. Più che altro quello, è da lì che forse è partito tutto quanto. Sì. Recensioni false su TripAdvisor e reato, condannato a 9 mesi di carcere. La decisione del Tribunale di Lecce: il proprietario di Promo Salento, che vendeva pacchetti di recensioni inventate, dovrà pagare anche 8.000 euro di multa. Tenetevi conto un po' di quella che è la situazione. Ora, al di là della notizia, che è già interessante di per sé, perché vuol dire che c'è stato un provvedimento preso nei confronti di qualcuno che aveva fatto recensioni false. Ma ora, come si è arrivati alla recensione falsa? Sarà stato l'esercente? Il ristoratore? Non penso. Sarà stato per caso un intervento dei NAS che hanno magari visto che in realtà tutto quello che era scritto non era reale? No. Sarà stato forse qualcuno che, seduto sul cesso, ha chiamato il 112 e ha detto: andate a prendere quegli stronzi! Un po' di commenti: la cotoletta con l'insalata era pessima, commenta l'utente, salvo poi leggere nella replica del ristoratore che nel suo locale hanno tolto le cotolette dal menù da oltre 2 anni. Il cameriere è stato sgarbato e poi si scopre che quel bistrò lavorano soltanto donne. Ho mangiato divinamente, e poi la data in cui sarebbe avvenuto il pranzo e il giorno di chiusura del ristorante. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma il risultato è sempre lo stesso. Negative o positive che siano, alcune recensioni online non sono frutto di una vera visita al locale. Che bella scoperta. E se lo sono, vengono scritte non in buona fede, ma dietro compenso. Altra bella scoperta, falsando tutta la classifica che deriva dalla somma delle recensioni. Insomma, morale della favola: chiedete a papà. Chiedete sempre a papà. Cioè, io, questa è la verità. Io non mangio mai da nessuna parte senza mio suocero. Questa è la verità. Cioè, mio suocero riesce a indicarmi le bettole peggiori d'Italia, dove però si mangia benissimo. E altro che recensioni di TripAdvisor. E soprattutto mio suocero non si vende, è reale, capito? Non vende le sue recensioni, è serio, è genuino, una persona che le cucine le conosce per davvero, caro Pisani. E poi diciamolo, voi trentenni di frutti di mare non capite un cazzo. dedicata a tutti coloro che cominciano ad avvicinarsi ai 50 e cominciano a sentire un po' la crisi di mezza età. Midlife Crisis, Faith No More, dall'album Angel Dust, con Mike Patton, che ricordiamo è l'uomo per il quale è mio marito, per il quale Zazzone metterebbe in discussione la mia eterosessualità sessuale, assolutamente, sì. Assolutamente, se c'è un uomo nonostante che nonostante la pappagorgia che ha ora, no vabbè, ma non mi interessa, a me quella panza piace tantissimo, devo dire la verità, è l'unico uomo che seriamente me lo può troncare in culo, questa è la verità, e con piacere anche dite che questo programma è volgare, è solo reale. Che accutone. Di Location 2.0 per il penultimo blocco di notizie, e andiamo a una notizia un po' più seria, diciamo, torniamo un po' a quella che sono gli argomenti attuali, perché una diciamo delle notizie che un po' più ci ha colpito questa settimana è la notizia di Ottavia Piccolo. Chi non conoscesse Ottavia Piccolo è forse l'ultimo baluardo del teatro e del cinema italiano come attrice, perché ovviamente le nuove generazioni diciamo, non sono così tecnicamente brave come quelle vecchie, dobbiamo dire la verità. Ma al di là del personaggio, quello che è successo a Ottavia Piccolo sarebbe deplorevole se fosse accaduto a chiunque. A chiunque. Nel caso di Ottavia Piccolo ancora di più, perché è un personaggio appunto conosciuto. In che paese viviamo? Ottavia Piccolo fermata dalla polizia perché aveva il fazzoletto dell'Ampi. Ah, gravissimo, ah, gravissimo. Lo ha denunciato l'attrice stessa, che voleva partecipare a un presidio al Lido di Venezia contro gli infortuni e la precarietà sul lavoro. Lo scorso sabato pomeriggio, poco prima della premiazione, leggiamo la Repubblica, poco prima della premiazione del Leone d'Oro, la Piccolo voleva partecipare al presidio organizzato dalla sinistra davanti al Palazzo del Cinema del Lido per ricordare gli infortuni e la precarietà del lavoro. I presidi, quelle manifestazioni, quelle cose che succedono in democrazia. Esatto, quelle cose, semplice dimostrazione del proprio pensiero, sì. Ma niente di più, niente di meno, solo che sai, se sono pelati con delle pettorine come l'altra volta, se li abbracciano, se li abbracciano e li difendono, li vogliono anche bene, se sono col fazzoletto rosso per i diritti, per i diritti, no, adunata sediziosa, mazzate, bravissimo, mazzate, crocifisso in piazza pubblica, gogna. Continuiamo, avevamo annunciato questo presidio davanti al tappeto rosso, racconta la donna, non era una manifestazione ma una testimonianza, una cosa leggera, senza dar fastidio a nessuno. La denuncia di una situazione che ogni giorno passa sotto silenzio, quella degli infortuni sul lavoro e dello sfruttamento degli operai. Avevamo anche ottenuto il permesso dei vigili, tutto regolare. L'attrice, che risiede anche al Lido, da sempre impegnata sul tema del lavoro, negli ultimi tempi è stata protagonista in teatro di PIS di denuncia sullo sfruttamento della manodopera, oltre ad essere attiva come testimonial contro il passaggio delle grandi navi a San Marco, non dal Molino, ma questa è una questione vecchia e stravecchia. Perché mai non posso entrare? Ha risposto alle intimidazioni dei poliziotti. Forse adesso è vietato in Italia girare con un fazzoletto dell'Ampi? Non è un segno di partito, ma il simbolo dei partigiani italiani. Mi spiace, io entro. Un fazzoletto rosso, tu devi andarlo a leggere per leggere che sia dell'Ampi, che è un'associazione riconosciuta. Riconosciuta. Ma al di là, il principio che passa è che se ti vesti in una maniera inconsueta, puoi essere tacciato di, puoi essere allontanato da una manifestazione. Se sei fortunato, se no vieni menato direttamente. Esatto. Come quindi è io ho un tanti. Sogno. Sì. La celere che carica una processione. From days of yore, Edwin Collins, A Girl Like You. Che stile, che stile. Questa mi è piaciuta. Questa devo dire mi è piaciuta, caro, sì, caro, sì, Cappello. Finalmente un po' di canzoni belle, oltre ai Fate No More che hai messo prima. Ma vabbè, ma quella è un'altra questione. Siamo all'ultimo blocco di D-Rocation 2.0. Abbiamo chiuso anche questa sesta puntata. Ce l'abbiamo fatta, Pisani. Ce l'abbiamo fatta. E questo pezzo ci stava proprio bene a stappare lo champagnino sul vostro yacht. Sì. Mentre sul vostro, sul pezzo. Sul vostro, non sul vostro. No, sul nostro, perché non ce l'abbiamo. Col pezzo vostro, che noi non ce l'abbiamo. Va bene, questa è stata la prima puntata senza il buon Silvius, che ricordiamo ci manca tantissimo, lo rivoliamo qua in Puglia. Ritroveremo un lavoro prima o poi, se mai non sfonderemo nel campo della radiofonia. Io prometto che troveremo un lavoro anche a Nico Cappello. Eh sì, bravi, perché come abbiamo detto inizio trasmissione, lo ricordiamo anche l'ultimo blocco, questa è forse l'ultima o la penultima puntata con Nico Cappello alla regia, che va alla ricerca dell'oro, abbiamo, sì, detto nel Klondike. Leggevi Topolino da piccolo. Certo, ma però si chiama in un'altra maniera. Klondike. Ma sei sicuro che non fosse, sì, nome di Topolino? Tipo Topo Mystery, quelle cose, quelle cazzate là. Comunque, detto ciò, letti troppi fumetti la nostra vita che ci hanno traviato l'esistenza. Vi salutiamo. E reso miopi. E reso miopi tantissimo, non soltanto i fumetti. Sempre giornaletti, alcune volte un po' troppo incrostati, ma va bene. Diciamo un ciao a tutte e a tutti da... e un in bocca al lupo a Nico Cappello. Torna come lo zio dell'America, esatto, ricco sfondato. Bravo, perché abbiamo bisogno della stanza. Bravo, noi vogliamo i tuoi soldi e la tua stanza, caro Nico Cappello. Quindi ricordati degli amici, vieni carico di dollari irlandesi. Dai, Redeem, Zazzone, Pisani e ancora per poco il buon Nico Cappello. Ciao, Giorgio Moroder. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future. And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. helps you free your mind about the concept of harmony and of music being correct. You can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do.